أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوا أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوا. Buongiorno Palestina. Anche stasera parliamo di Palestina da Radio Wombat, il mercoledì dalle 19 alle 19.30. Oggi abbiamo in studio Marina e Silvia, che sono tornate da un viaggio in Palestina. Ma non sono le sole che hanno partecipato a questo viaggio, è tutto un gruppo di persone che hanno partecipato. E la messe di appunti, di ricordi, di emozioni che hanno portato è gigantesca. Quindi stasera intervistiamo Marina e Silvia, ma dedicheremo altre trasmissioni ancora a questo viaggio che è stato così importante e così, così denso di dati, di notizie, che vale senz'altro la pena di trasmettere. Allora, cominciamo da quello che ci dice Marina. Marina, di che cosa ci parli? Salve, ciao a tutti, sono Marina. Allora, noi volevamo, intanto iniziamo questo ciclo di trasmissioni che faremo sicuramente con gli altri partecipanti a questo viaggio in Palestina. Avevamo deciso di iniziarlo parlando di campi profughi. Perché? Perché ne abbiamo visti diversi. Ne abbiamo visti diversi, ne abbiamo visti a Betlemme, a Nablus e a Jenin. In particolare a Betlemme, nel campo di Aida, abbiamo incontrato alcuni rappresentanti di un'associazione che si chiama Badil, ed è un'associazione palestinese che si occupa dei rifugiati, della tutela dei rifugiati e di quelli che vengono chiamati, come vengono definiti, gli sfollati interni. Ecco, dunque tu ci parli quindi di campi profughi. Noi abbiamo già parlato di campi profughi, però erano i campi profughi del Libano. Ne abbiamo parlato in due trasmissioni precedenti. I campi profughi della Palestina differiscono in qualche maniera da quelli del Libano? Hanno delle caratteristiche particolari? Cioè avete trovato delle persone? Tu, Marina, sei stata altre volte, sei stata anche in Libano e quindi puoi fare un paragone per quanto riguarda questi due? O ci puoi dire qualche cosa di particolare invece su questo campo, su questi campi profughi della Palestina dove hai avuto questi incontri? Va bene, allora tu mi chiedi che differenza ho riscontrato fra i campi profughi in Libano e i campi profughi in Palestina. Allora, secondo me la differenza immediatamente più evidente è il fatto che nei campi profughi in Libano che ho visitato io, le persone non lavorano. In Libano i rifugiati non possono lavorare. Credo sia una percentuale veramente minima, tipo il 2 il 3% che ha un lavoro. In Palestina invece i profughi sono, quelli che vivono nei campi profughi, sono soggetti alle stesse leggi dei palestinesi, quindi possono avere carenza di lavoro, perché per i palestinesi c'è carenza di lavoro, ma non è che dipende dal fatto che loro sono profughi, dipende dal fatto che ci sono problemi a trovare lavoro, come per tutti i palestinesi. I palestinesi nei campi profughi in Palestina in generale possono al di fuori del campo profughi trovare casa, per esempio. A volte preferiscono trasferirsi fuori dal campo per uscire un po' perché un campo profughi, ora si deve immaginare, per esempio, qual è, Silvia? Forse quello di Nablus o forse Jenin, che è mezzo chilometro, praticamente il campo profughi è a mezzo chilometro quadrato o un chilometro quadrato. Sì? Allora, una domanda. Sì. Chi abita in un campo, cioè i profughi che abitano nei campi profughi, hanno qualche volta il permesso di andare a lavorare dentro Israele, oppure questo permesso viene dato solamente a palestinesi che stanno fuori dai campi Ma io profughi? allora esattamente non te lo so dire, non voglio dire una cosa che poi può essere smentita, però secondo me, poiché hanno i palestinesi che vivono all'interno dei territori occupati della Palestina, i profughi, i campi profughi all'interno dei territori occupati della Palestina, secondo me, se ho capito bene, hanno gli stessi diritti dei palestinesi e quindi penso che loro lo possano fare di andare a lavorare in Israele. Però non vorrei dire una cosa che non è corretta. Allora, stavamo dicendo del fatto che un campo profughi ce lo dobbiamo immaginare come un posto strettissimo perché lo spazio dato per il campo profughi è quello dal 48 o dal 67, dipende da quando è stato istituito. Quindi parliamo di mezzo chilometro quadrato di superficie per un campo profughi, parliamo di 1 chilometro quadrato. Quindi che cosa succede? Le famiglie che abitano lì si moltiplicano ovviamente e quindi il campo profughi cresce in alto, non cresce, non può crescere in largo, deve crescere in alto per forza. Questo implica che effettivamente la situazione è. Guardate, io vi invito ad andare a vedere un campo profughi, sia esso in Palestina, sia esso in Libano, sia esso dove volete, cioè sia dove volete andare, dove preferite, però vi invito veramente ad andarla a vedere, perché se ve lo descrivo per radio o vi invito a vedere delle foto, perché ci sono delle strade strettissime, sono dei posti incredibili, non ci si passa, non ci si passa dalle strade, veramente, perché? Perché ovviamente non può andare per largo, deve andare per lungo la crescita del campo e quindi le persone, nuove persone che ci si deve, devono essere sistemate. E dunque, Immagino per i giovani no, che cosa possa essere una cosa di questo genere. per i giovani è terribile. Io ho questo ricordo dei campi, soprattutto in Libano, questi giovani che non possono lavorare. Questa a me sembra veramente una cosa assolutamente folle. Non possono lavorare, sono seduti fuori al bar davanti a casa, sono veramente abbandonati a se stessi, non sanno assolutamente che cosa fare. È veramente una situazione che veramente prende, cioè, insomma, ci si sta veramente male, soprattutto in Libano, soprattutto in Libano. Ecco, voi avete avuto questo incontro con Badil. Ecco, Badil e i risultati di questi incontri come sono stati? Voi avete incontrato Badil e poi anche altre organizzazioni? Sì, abbiamo incontrato Badil e un'organizzazione che adesso l'AIE, qualcosa, l'AIE, sì, al campo di Aida. Sì, abbiamo questi che ha detto Marina e poi a Balata invece abbiamo incontrato il gruppo del Centro Culturale di Jaffa, di cui poi di magari cui poi quando magari parliamo parlerà, sì. del campo parliamo un po' più diffusamente. Allora, queste associazioni fondano. Allora, Badil è una cosa. Badil si interessa della situazione dei rifugiati e degli sfollati interni, cioè si occupa di tutelare queste persone. Le altre organizzazioni, l'AIE, questa che diceva Silvia prima, si occupano fondamentalmente invece di aiutare soprattutto le persone più giovani. Di aiutarli per la scuola, di aiutarli per il gioco del calcio, per esempio. Poi Silvia vi parlerà di una cosa molto bella che abbiamo fatto. Si occupa soprattutto dei giovani e della loro educazione e della loro sì, introduzione. Allora, queste organizzazioni sono organizzazioni di palestinesi oppure sono organizzazioni di israeliani? Ci sono ebrei che vi partecipano? Sono tutti palestinesi? Che tipo di organizzazioni sono? Queste sono tutte organizzazioni palestinesi, soprattutto quelle che si occupano dell'educazione dei ragazzini nei campi. Badil credo sia è un'organizzazione che accetta anche internazionali, quindi se accetta ebrei sono comunque ebrei contro l'occupazione. Sono tutte persone internazionali. A noi ci ha tenuto un briefing di un paio d'ore una ragazza no, nordica, non ricordo, forse olandese, sposata ad un palestinese, purtroppo gliel'avevano ammazzato da 3 mesi. Infatti è stato anche un incontro estremamente toccante, devo dire, perché questa ragazza ovviamente 3 mesi dopo ancora sentiva il dolore profondissimamente per la morte, per l'uccisione del proprio compagno. Beh, questa è una nota decisamente triste e a questo punto cerchiamo di risollevarci con un breve intervallo musicale e successivamente riprendiamo la trasmissione. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم Si parla ora di sì, dei campi. Sempre di campi profughi, naturalmente, della Cisgiordania, ma altri campi profughi, e in particolare quali, Silvia? Sì, quello di Aida e quello di Balata, Nablus. Rispetto a quello di Aida, Marina ha già parlato degli incontri che abbiamo fatto con l'associazione, con Badil e al centro LAI, che è un centro di aggregazione per ragazzi, sostanzialmente è un centro che permette ai ragazzi di fare dello sport, musica, teatro, fanno dei centri estivi, quindi è proprio un punto di aggregazione. Mi piacerebbe in realtà a me condurvi un po' in mezzo al campo e descrivere quello che noi abbiamo visto. La radio non permette le immagini, come diceva Marina, per cui non vi possiamo far vedere delle foto, però possiamo almeno tentare di descrivere quello che abbiamo visto. Il campo di Aida ha proprio sulla porta una grandissima chiave che è il simbolo della diaspora palestinese. E perché hanno messo questa chiave? Perché le persone che avevano lasciato le loro case a Gerusalemme ed Hebron, perché i rifugiati del campo di Aida vengono essenzialmente da queste due città, hanno lasciato le loro case in fretta e furia nel 48, pensando che una volta che fossero finiti gli scontri che in quel momento infuriavano, sarebbero potuti tornare nelle loro case. E quindi che cosa hanno fatto? Come si fa quando si esce di casa? Si chiude la chiave di casa, si chiude la porta di casa e ci mettiamo la chiave in tasca, senza nemmeno pensare di prendere gli effetti personali, proprio perché pensavano di rientrare di lì a breve. In realtà in quelle case non sono più rientrati i palestinesi ed hanno ancora le loro chiavi in tasca che si tramandano di generazione in generazione. Sai come? Allora ti voglio dire come questa cosa la raccontano gli amici di Israele. Gli amici di Israele dicono che i palestinesi se ne andarono dalle loro terre volontariamente e anzi furono i loro dirigenti a dirgli: guardate, mettetevi in tasca la chiave perché tanto tornerete tra poco. E quindi loro se ne andarono come andare, diciamo, in vacanza. Ecco, così la raccontano. È vero Claudio, questo mi corrisponde molto. Sto leggendo ora il libro di Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina, e dice proprio questo. Dice, raccontano che i palestinesi di loro spontanea volontà se ne andarono. E certo, e magari di loro spontanea volontà vivono in un campo profughi ammassati come delle bestie. Per continuare il nostro piccolo viaggio, dalla parte opposta della porta e quindi di questa grande chiave, c'è lì ad Aida un presidio militare israeliano che incombe. È veramente impressionante perché è proprio una torretta fortificata dalla quale ti aspetti che da un momento all'altro escano i militari e purtroppo. Quando ne eravamo lì, no, ma purtroppo spesso questo accade e fanno vittime, vittime tra gli adulti, vittime fra i bambini. È una presenza piuttosto opprimente perché è proprio come un ricordarti chi comanda veramente in quel territorio, che purtroppo è proprio questo. Una domanda, sia tu che Marina, ci avete parlato di due diversi campi. Questi due campi si trovano nell'area A, nell'area B, nell'area C, cioè nell'area completamente sotto il controllo amministrativo e militare israeliano, oppure nell'area B, che è quella a controllo misto? Militare israeliano e amministrativo palestinese. Sono tutti nell'area A, cioè totalmente controllo palestinese, perché sono tutti vicino alle città, quelli che abbiamo visto noi, poi magari non tutti saranno in area A, ma noi abbiamo visto quello di Aida, che è lì a Betlemme, praticamente a Beit Saur, Saur, sì, a Beit Saur. Quella la torretta di cui stava parlando prima Silvia. È la torretta del muro di separazione ed è il muro di separazione è costruito a 100, no, che 100, quanto? 50, 40 metri dalle case del campo profughi. Non so se vi rendete conto. La torretta di cui parlava lei è quella, è la torretta. Se qualcuno ha visto foto o se qualcuno è stato in Palestina, avrà presente le torrette, quelle che ogni tanto interrompono il muro di separazione, che sono tutti sono tutte assi di cemento. Sì, prego. E infatti, appena si entra dalla porta del campo, sulla destra ci ritroviamo subito addossato il muro che i palestinesi hanno cercato in qualche modo di abbellire e di rendere più vivace con i loro murales. C'è un po' di tutto, dalle immagini della chiave che richiama, diciamo, al diritto al ritorno, a immagini invece di vita quotidiana dei palestinesi, quindi dei campi, degli olivi, oppure ci sono frasi che inneggiano alla libertà. Per esempio, ce n'era una che mi aveva colpito, che diceva: spendi la tua vita per la nostra libertà, la tua memoria vivrà in ogni palestinese. Quindi aveva quasi un che di epico. Noi abbiamo cercato, partendo da qui, di portare loro qualcosa perché io ero stata 15 anni fa in Palestina e lì, per i campi profughi, avevo visto quello di Askar in una situazione molto dura perché eravamo in mezzo alla seconda intifada e avevo ravvisato la necessità di portare qualcosa ai ragazzi per farli distrarre, per fargli fare la vita da bambini, perché dentro i campi fanno poco la vita da bambini, fanno molto la vita da adulti in questo clima di tensione e di terrore che vivono quotidianamente. Allora ho mobilitato tutti i tifosi della Fiorentina proprio perché a Betlemme c'è un campo in onore di Astori per portare delle maglie a questi ragazzini e le abbiamo divise fra i due campi profughi, cioè da quello di Aida, a cui abbiamo portato un po' di maglie, e quello di Balata a Nablus, in maniera tale che, cioè, potessero giocare e divertirsi con questo e quindi acquisire quella leggerezza che probabilmente gli manca perché vivono una situazione di tensione molto forte. Bene, allora almeno questa è una nota positiva. Dopo il secondo intervallo musicale andremo un po' a vedere quali sono gli sbocchi, anzi gli sbocchi, le ipotesi su cui si può andare a concludere. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسيافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد Allora, da questa situazione dei campi e da questi incontri che avete avuto, ne sono saltati fuori una sorta di tesi, di piattaforma rivendicativa, di conclusioni e di richieste ben precise. Ecco, quali sono quelle che vi sono state fatte presenti e che in qualche maniera vengono probabilmente poste anche sul piano, non solamente sul piano locale, ma anche sul piano internazionale? Sì, certo, è chiaro che quella che in qualche modo viene auspicata è quella che viene definita una giusta soluzione al problema dei rifugiati palestinesi. È ovvio che c'è un problema, no? Questa è una violazione totale al diritto internazionale. La risoluzione, la famosa risoluzione 194, che sostiene appunto il diritto dei rifugiati palestinesi a scegliere se rimpatriare oppure rimanere in Israele, in quello che adesso è Israele, ed essere eventualmente risarciti. Quindi la giusta soluzione alla questione dei rifugiati palestinesi si deve basare sia sul diritto al ritorno che sulle riparazioni del danno subito. Il diritto al ritorno è un elemento chiave per la risoluzione della questione palestinese, assolutamente, è un punto fermo, è impossibile prescindere dal diritto al ritorno. E poi l'altra cosa che ci deve essere è la persona deve poter fare una scelta. La scelta può essere se vuole tornare nel luogo d'origine, oppure ormai si è sistemato bene dove si trova e comunque deve essere risarcito, si è sistemata bene dove si trova nei territori occupati, in quelli che attualmente sono i territori occupati, oppure anche all'estero, se si trova bene in Giordania è giusto che in Giordania ci rimanga, però deve essere risarcito. E allora e quelli che vengono definiti risarcimenti sono il riconoscimento da parte degli israeliani, perché gli israeliani e del governo israeliano, perché ancora non è stato riconosciuto il ruolo del governo israeliano nella Nakba, nella catastrofe dei palestinesi. E già il primo punto è il riconoscimento da parte di Israele che sono stati loro quelli che hanno provocato questa situazione. E poi restituzione di quello che è stato tolto o compensazione compensazione. Ok, va bene, io. Ecco, perché dunque il problema poi non, mi pare che non riguardi solamente i rifugiati nei campi profughi, ma in generale uno stato di occupazione, perché non è che quelli dei campi profughi stanno particolarmente male e gli altri invece stanno bene, perché gli altri, diciamo, il resto dei palestinesi che sta nella Cisgiordania occupata si trova tutto sommato con un esercito di occupazione dentro casa. Ecco, una domanda volevo fare, perché dunque voi avete girato non solamente per campi profughi, avete credo visto diverse cose, ma si parla molto della carenza dell'acqua da parte dei palestinesi, cioè l'appropriazione dell'acqua è stata una ed è tuttora una delle costanti della politica di rapina israeliana. Ecco, voi avete sofferto della carenza d'acqua o avete rilevato in qualche maniera le differenze nell'utilizzo dell'acqua da parte degli uni e degli altri durante il vostro viaggio? Allora, noi personalmente, essendo, come dico io, dei piedi dolci stranieri, non abbiamo subito minimamente carenza di acqua. Anzi, siamo sempre trovati, cioè non abbiamo mai avuto problemi. Però i palestinesi problemi ce li hanno. Una delle cose che ci diceva Yasser, la nostra mitica guida in questo viaggio, era come si fa a distinguere una casa palestinese da una casa israeliana, una casa per esempio in una colonia da una casa palestinese? Come si fa a dire che quel gruppo di case lì è palestinese? Il gruppo di case lì è palestinese se sul tetto della casa c'è una cisterna per l'acqua. Cosa significa questo? Significa che l'acqua per le case palestinesi non è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci può essere, ci può non essere, e quindi c'è bisogno, c'è necessità di avere una cisterna sul tetto. Quindi se vedete una casa in Palestina con una cisterna sul tetto, quella è una casa palestinese. Mentre invece se guardate una colonia, come per esempio a noi è capitato di guardare una colonia dall'alto, eravamo vicino a Betlemme, vedrete che loro hanno alberi, piscine, fontane e tutto un gran dispendio d'acqua che dall'altra parte non c'è stato dato di vedere. Quindi voi avete, quindi abbiamo, noi abbiamo dedicato questa trasmissione di oggi ai campi profughi, ma voi siete andati ben oltre i campi profughi come visita. Dicevi che nelle prossime trasmissioni ci occuperemo di altro, sempre riguardo al vostro viaggio. In particolare di che cosa ci occuperemo? Bene, allora noi stiamo programmando di fare una serie di trasmissioni che vanno da il ruolo della donna nella società palestinese, una trasmissione sulla città di Hebron che sarà interessantissima perché Hebron è terribile ed interessantissima, sui bambini abbiamo avuto modo di incontrare Ahed Tamimi e abbiamo visto delle situazioni in cui per i bambini raggiungere la scuola è estremamente difficile e insomma ne abbiamo di cose da raccontare. Volevamo parlare di Gerusalemme. Insomma, più o meno le cose sono queste. Non mi ricordo adesso se abbiamo altro, più o meno ho detto tutto. Beh, con questo vi ringraziamo della vostra presenza e della vostra passione con cui avete raccontato queste cose. Noi vi ringraziamo anche gli ascoltatori della loro pazienza e diamo appuntamento a tutti mercoledì prossimo alla stessa ora dalle 19 alle 19.30, ricordando che le trasmissioni, sia questa che quelle precedenti, possono essere ascoltate in podcast su Radio Wombat quando volete, con comodo. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظليكم قابو عزي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظليكم. شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي الأحلام طريقك مدن مدن أو نحدن يا عيني.